Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La compagnia Le Belle Bandiere presenta lo spettacolo Il Grande Libro, Canto alla Libertà, all'interno del progetto Canto alle Vite Infinite. Drammaturgia, regia e interpretazione Elena Bucci, musiche originali dal vivo Marco Zanotti, musiche originali registrate Cristian Ravaglioli. Drammaturgia sonora e cura del suono Franco Naddei. Assistenza al progetto Nicoletta Fabbri, una produzione Le Belle Bandiere con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Russi. Una la fila, una la taglia, una la fa i capelli di paia, da Dune alla battaglia, la battaglia è vata, io cugnivo pianderincio. Dormi, dormi, bel moretto, ci sono tre vecchie su un panchetto. Una fila, una taglia, una fa i capelli di paglia per andare alla battaglia. La battaglia è il battaglione che non ci vuole più andare nessuno. Questa lingua che nessuno capisce è la lingua della mia terra. È la lingua che sa fare lo sgambetto ai papi e ai re. È la lingua che sa nominare le distese dei peschi in fiore. È il colore del mare quando cambia la stagione. È la lingua che se vuole dice la verità. È la lingua che ti dice quando il mondo cambia in fretta e cambia male. Lingua della mia terra, terra di acqua, dalla quale fuggo e ritorno, nomade e paesana. Terra di acqua, di nebbia, di mare, di pioggia, di fiume ribelle. Terra che ti sembra tutta squadernata e aperta. Ma basta salire su un argine e non sai più dove ti trovi, fra quelle canne e quei pennacchi. L'argine è l'unica altura di questa pianura di gente contadina, pescatori, braccianti, gente delle cooperative, gente che se viene la tempesta si divide il raccolto, gente fiera, ma che ha chinato la testa per 4 soldi in più facili da guadagnare. L'argine ti fa vedere lontano, verso le colline dove si rifugiavano i ribelli. E ancora tanti ce ne sono, e come sono belli! Io da qui posso pensare in un lampo di raggiungerli, attraverso la storia, che non mi parla più. La mia terra è un grande libro che parla. Andiamo al fiume, dicevamo, ed era come andare all'avventura. Magari quelli ribelli non lo sapevano che stavano diventando eroi ed eroine. Sono diventati così, seguendo la natura del loro cuore, ribelle come quel fiume che corre e corre e corre. Non si sono lasciati deviare. Hanno straripato e cambiato la storia, costretti ad uccidere a volte anche se non l'avrebbero voluto. La mia terra dove sono nata, la mia terra che si allaga e si asciuga, palude e campagna. Da qui fuggo e ritorno. Da qui guardo il mondo e mi pare di poter capire tutte le altre lingue. Ma come ho fatto io ad andare via? Io, che quando sono andata a Bologna a iscrivermi all'università, mi sono talmente spaventata della città che ho preso il primo treno e sono tornata indietro. Io che quando si andava al bar ad ascoltare le canzoni c'era sempre qualcuno che diceva «Ma quella non parla mai, cos'è, muta?» Io che se qualcuno mi chiedeva un appuntamento dicevo «Ma dai, magari prima o poi ci si incontra». Io che volevo fare del bene al mondo e mi sono iscritta a medicina, ma dopo 3 giorni di camminate lungo i corridoi pieni di scheletri sono svenuta e ho pensato che il bene al mondo l'avrei fatto con il teatro. E che fortuna ho avuto a incontrare chi ho incontrato, quei maestri che mi hanno portato nei piccoli teatri e nei grandi, in tutta Italia, in Europa. Maestri che non ti dicevano mai brava o bravo. Dovevi da solo capire che bravi non si diventa mai. Il teatro mi ha consegnato gli strumenti per leggere il grande libro del mondo. E sono tornata per vedere se tutto quello che avevo imparato mi avrebbe aiutato a pagare il debito con la mia terra che avevo abbandonato. Serviva a qualcosa tutto quello che avevo imparato? Bene. Giramondo, sei tornata? Cosa vuoi sapere da me? Oh, terra! Ho imparato molte cose, ma riconosco che non ti conosco. È già qualcosa. Attenta! Hai un folletto sulla spalla, qui siamo pieni. Guarda che ti tirano per i piedi, guarda che ti rubano le cose, guarda che ti fanno lo sgambetto. No, i folletti, terra mia, io li conosco. Quando sono tornata qui, ci siamo messi il cappello rosso dei folletti, quello che simboleggia il fungo. Lo mangiavano i contadini per resistere alla fame e alla miseria nelle stalle, per sognare. E anche noi abbiamo sognato. Abbiamo aperto palazzi abbandonati, un teatro chiuso da 20 anni, le chiese, le piazze. E quali di questi spazi avete in gestione? Nessuno. Ah, che bella realizzazione. È che io con la politica, sai, non ci so fare. Meglio così. E con i riti del nascere e del morire, dimmi... Ci sembravano superstizioni vuote. Sbagliato! Quei riti servono ai vivi che rimangono per restare in contatto col passato. Noi abbiamo fatto una specie di rivoluzione guardando le stelle di notte, terra. Il dialetto te lo ricordi? A volte mi mancano le parole. Hai imparato a fare i cappelletti? No. La piadina? No, terra. E che cosa hai dovuto fare? Il teatro. E ora che cosa vuoi da me, Giramondo? Io vorrei capire dove il filo si è spezzato. È rimasto qualcosa nel passato che si è perduto. E io lo voglio ritrovare. Ne sento il profumo, ma non lo vedo. Le parole perdute, dove le ritrovo? Non ti dico niente, Giramondo traditrice che mi hai abbandonato. E invece la mia terra comincia a parlare. Te lo avevo detto che il mondo è un grande libro da sfogliare. La mia terra è una porta magica. Ogni angolo del paesaggio ha una pagina. Ogni persona che passa è una storia. Parlano le pietre, parlano gli alberi, il campanile. Parlano le persone anche quando stanno zitte. Parla l'aria e mi fa vedere quello che non ho fatto in tempo a vedere, quello che non vedrò. Si svegliano da ogni parte le ombre, dei vivi e dei morti. Mi prendono per il vestito, mi impediscono di scappare. Racconta racconta di me, per favore. Racconta di me, per favore. Racconta di me, per favore. Se non lo fai tu, chi lo fa? Ma non posso raccontarvi tutti. Provaci almeno. E se muori prima, ma chi è? Da qualche parte dovrò cominciare. Mescoliamo i ricordi. Mescoliamo le vite. Balliamo un antico ballo prima del liscio, il saltarello. Siamo in 100, 200, 3000. Balliamolo tutti insieme, nostalgia di vite che non ho vissuto. Prendo un nome e un cognome, il suo soprannome. Intorno ad ogni persona faccio una corolla di fatti, come facevano gli avi, come si faceva nelle piazze, nei caffè. E diventa leggenda la vita quotidiana di ognuno. I fatti veri sembrano inventati, quelli inventati sembrano veri. E mi incammino con tutta la mia scia di fantasmi. Mi incammino lungo una strada buia, illuminata solo dalle stelle. Dalla luna, questa strada, da un lato. Ah, la laguna, la palude, la valle. Immobile, come se non fosse passato nemmeno un anno, dall'antichità. A destra, la grande città del petrolchimico che mi separa dal mare con i suoi treni, le sue strade, i fumi. Passato, futuro, futuro, passato, passato, futuro. Lo so che lungo questa strada io devo stare attenta. Devo chiedere a chi incontro. Da che mondo vieni? Da quello dei vivi? Da quello dei morti? Là sulla palude viaggiano donne con le reti d'argento e barche sottili. Ti acchiappano, tu che sei morto e ancora non te ne sei accorto. Ti consolano. Non ti avvicinare alle sirene, perché il loro canto è dolce, ti prendono per i capelli e giù, giù, giù ti vogliono trascinare. E vado, e vado. E dopo tanto girare, mi trovo nella piazza del mio paese di nuovo a raccontare da capo. Per fortuna! Chi ha parlato? Una voce viene dall'alto, dal campanile. Sono loro! I reduci della prima guerra mondiale, tutti vestiti di scuro. Quello è il loro luogo di ritrovo, dove tengono le bandiere, le medaglie. Per fortuna sei tornata dopo generazioni. Noi non vedevamo l'ora di tornare dalla guerra per raccontare a qualcuno quell'inferno che avevamo vissuto, perché non tornasse. È finita, siete noiosi, ci dicevano. Ma se smettete di ascoltarci, la guerra torna, magari senza quelle bombe, con altre armi peggiori. Ascoltateci! E guarda, tu che vuoi raccontare, chi sta passando di là? Dopo l'altra guerra mondiale, l'ultimo dei fratelli Cervi corre con un trattore. È in mano a un mappamondo. È lui che ha studiato perché è stato in galera e va a raccontare ai suoi fratelli che è molto bello riuscire a comprare un trattore, andare avanti, ma ancora più bello è imparare che tutti quei segni, quei confini, sono una rete che con un soffio può volare via. E rimane tanta gente che vuole coltivare la terra in pace. L'agricoltura è una cosa di pace. Capito? Ci hanno ammazzati tutti i fascisti. È rimasto solo nostro padre, forte come un olmo, e nessuno è riuscito ad abbatterlo. E racconta, e ricorda, e ricorda, e racconta, come quei maestri che insegnavano la libertà sopra ogni cosa e che ognuno doveva scegliere la sua vita. Sembravano così pericolosi che gli tolsero l'insegnamento. Se non fosse stato per quella gente che gli voleva bene, di fame sarebbero morti. Ma loro sempre hanno continuato. Brava! Ti sei ricordata del maestro anarchico? Brava! Ivano! Mi dimentico sempre che sei morto. Anch'io non faccio fare altro che progetti. Tu non devi avere paura di invecchiare. È un trasformare. Non devi avere paura di avvicinarti alla morte. Morire è soltanto un'altra esperienza di vivere. Io prima mi guardavo sempre allo specchio. Adesso invece mi perdo nella natura e mi dimentico di me. Osserva. Diventa un copione vivo. Di tutte le vite, di tutti i fatti, di tutti i volti, di tutte le parole. Ma è troppo, Ivano. No, bisogna provare. Pensa a mio padre, Amleto, detto Venerino, chissà perché. Se ne andò al confino, noi pensavamo di morire di fame. E invece ci ha insegnato la libertà a vivere per sempre, capito? Ancora, ancora ti devi addentrare. Passa come un fulmine la Giuseppa su una bicicletta nera, con i capelli tutti marron. E va che vola, e va che vola, e va che vola, fermati! Ma cosa mi fermo? Ho fretta! C'è un sacco di lavori da fare. Te non fai mica niente, sei una bambina. Tua mamma va a insegnare a scuola. E chi li fa i letti, chi le fa le pulizie, chi ti bada te? Io, la Giuseppa. Quanto ci siamo divertite, eh? Quando ci siamo accorte che io non mi ricordavo i finali delle storie, perché sono sempre stata così povera che le storie e il tempo non ce l'avevo per impararle. Le cambiavo, come nella vita. Non ci siamo divertite, non è più bello? E io ti ho scoperto, facevi finta di leggere e non sapevi. E anche tu quante ne hai cambiati di finali. Siamo state due cantastorie, una da una parte e una dall'altra. Cammina bene ancora, avanti, avanti. Avanti, avanti, avanti. Ti ricordi di me? La Giovanna. Piccola ero, sul palcoscenico un gigante. Mi ci hai portato te? Studia, studia, mi dicevi. Io impiegata del comune. Se non avessi avuto il canto, il teatro, chissà come sarei finita. Con un marito che non ha mai voluto fare niente e un figlio, boh, boh, buono, buono, però. E mio marito, quando stavo male, piangeva lui perché si sentiva solo. Io ti ho insegnato tutte le girudelle e i canti che potevo conoscere. E tu ci insegnavi a fare gli spettacoli, a me e al discendente del cantastorie. Facevamo le prove nel bar, ti ricordi? E dicevi, scrivi, scrivi, scrivete. Adesso però devi scrivere te e devi addentrarti ancora in quella nebbia, in quell'oliveto, tra quelle colline. E sono in una casa vecchia dove ho imparato la mia lingua, quasi di nascosto. Ho imparato le imprecazioni, i toni della voce, da donne burbere, forti, e uomini con le mani grandi. Mi sembravano vecchi, e invece erano solo giovani che si sposavano presto. La casa è molto vecchia ed è incastrata in un paese che cambia in fretta. Ma più il paese cambia, più quella casa si tiene stretta a quello che è. Uguale, uguale. Sembra che sia passato un terremoto e tutto è fermo. C'è ancora un foglio dove fanno i conti per la briscola. Una sedia vicino alla finestra. Un pollaio vuoto, si sente soltanto l'urlo dei pulcini. In quella casa stavamo stretti stretti finché mio padre, il primo laureato della famiglia, disse: ne costruiamo una nuova proprio lì vicino, secondo il progetto dello zio Silvio, che era un ingegnere, alto, bello e infatti è morto presto. Il tetto era il contrario e ad ogni autunno si allagava. La casa vecchia non si è allagata mai, dicevano i vecchi. Tra le due case c'è un cancellino e il cancellino segna una distanza di secoli. Nella casa vecchia c'è il dialetto, le mucche, il maiale, le galline, la confusione. Nella nuova c'è l'italiano, i pavimenti di marmo, la televisione, la paura di essere soli. Nella casa vecchia da soli non si riesce ad essere mai. Guardale quelle due bambine che giocano nel cortile. La bionda è l'angelo, la mora è il diavolo. La mora ero io. La bionda era la mia cugina Franca, che le riusciva tutto bene, bene, bene. Sembrava che lo facesse apposta, invece no, era naturale. Le sue bombole erano tutte pettinate in ordine. Le mie gli aveva tagliati i capelli mio cugino Andrea, dicendo che sarebbero ricresciuti, ma non era vero. I budini delle bucce di pomodori a lei venivano belli, compatti. A me si disfavano e li buttavo nel letame. Ma quando abbiamo trovato il mosto nella cantina, che ancora si pestava a volte l'uva con i piedi per testardaggine, ce lo siamo bevuti tutti. E allora sì che eravamo due diavoli. Cascavamo nel prato. Sono ubriache quelle bambine. Hanno tirato fuori la frusta. Alla Franca il vino piace ancora molto. Infatti fa i giri delle cantine. Suo marito è astemio, ma la ama tanto che è diventato sommelier. La Franca mi telefona e mi dice: io non me la ricordo mica questa cosa dell'angelo, del diavolo. Io mi ricordo che tu mi obbligavi a far parlare le bambole che non avevano niente da dire. Ma io ci provavo lo stesso. È lei che mi insegna il valore dei fiori, che cosa significa andare a un cimitero, passarci davanti, portare i fiori ai vivi. È lei. Ci penso io. Tu non hai tempo. Non hai tempo. Il tempo ha sommerso quella siepe. Ormai è un bosco. E il cancellino ci ha annegato dentro. Ma io riesco ad aprirlo lo stesso e mi vengono incontro tutte le persone. Ah, finalmente. Nonna, come sei bella. Non sono bella, sono vecchia. A me piace. Che cosa sono quelle righe sulla tua fronte? Non sono righe, sono rughe. Ma dimmi, lo vuoi uno zuccherino così me lo posso mangiare anch'io? Voglio chiederti perché non ti sei mai sposata. Cosa pensi? Che non avessi dei corteggiatori? Davanti alla mia porta c'era una fila che non finiva mai. È che succedeva così. Te lo ricordi, nonno Achille? Aveva una moglie bella, brava, buona. E infatti anche lei è morta. Lasciando una bambina bella, brava e buona, non c'erano mica gli asili nido. E allora, sai cosa succedeva? Che una rimaneva zitella. Io ero la sorella di Achille e mi ho levato la bambina. E ma non mi sono mica mai pentita, anche se non sono mai andata via da qui. Ne sono stata così fiera. E nonno Achille, beh, a un certo punto non gli è venuto in mente di fare l'autostop per andare al mercato? L'ha preso su un narcolettico e sono finiti nel fosso. Il narcolettico si è salvato? Nonno Kill, no. Forse per quello che il nonno che non ho conosciuto mi guarda così serio dal ritratto. Proprio quando era libero e poteva vivere, vrum, una donna sulla barca d'argento se l'è portato via. I vecchi con i quali noi bambini dividevamo la vita. Ci aiutavamo l'un l'altro a stare al mondo. Era bello. Era facile. Era naturale. La sedia vuota della casa ora è abitata. Guarda chi c'è. Lo ziolino. Io sto qui davanti alla finestra e guardo, e guardo. Se passa qualcuno gli chiedo se ha bisogno. Anche a voi l'ho chiesto. Mi avete detto sì e mi avete riempito la casa di roba di teatro che ho paura che mi cada il soffitto sulla testa. Mi avete portato via il mio alto damigiane e ci avete fatto il trono per il vostro Macbeth, per i vostri spettacoli, ma anche il mio di trono quando me lo riportate indietro. Io qui sono un re, non ho bisogno di far niente. Le mie donne mi hanno allevato così, incapace di far tutto, innamorato di ogni cosa. Sto qui e attendo. Non vado neanche a caccia perché mi basta sentire il trillo degli animali, degli uccelli da richiamo nelle gabbie, ognuno con la sua voce diversa. Aspetto che venga la fine, come un'ombra dolce. Non è bello così. La cosa che mi dispiace è i suoi occhi azzurri si inumidiscono di lacrime e di essere andato via dopo la tua mamma, io che mi sembra di non servire niente. Ma come non servi a niente? È tutta quella compagnia che ci ha fatto sempre a tutti, sempre lì, che sapevamo sempre dove trovarti. È una cosa importante. Mi viene in mente la sua mamma. In piedi, davanti alla stalla che spenda una gallina. Allevava gli animali come una mamma e come una mamma li ammazzava con la stessa cura. Azzurri gli occhi. Li ha lasciati anche sua figlia, l'Annunziata, la mamma della Franca, che ha quasi 100 anni, se nomini le guerre puniche, zompa in piedi e sa i nomi di tutti i generali a memoria. È insegnante ancora, anche se in pensione. Saper scrivere, saper parlare, saper leggere significa avere gli occhi, avere le mani, avere le gambe per scappare via. Significa esistere. Studiare è importante, importante. Ne sapevano loro e ne sapevano, ma non soltanto di guerre puniche, non soltanto di pulcini, non soltanto di tacchini che si arrampicavano la sera. Ne sapevano di camomille e non soltanto, ma di qualcosa di antico che si è perduto. Si vergognavano perché arrivava il nuovo. Si vergognavano di quel sapere che non si trasmette se non con il fare. E non ce l'hanno voluto dire. Guardale quelle bambine. Vanno a studiare all'università come i maschi. Davvero? E non devi parlargli in dialetto. No, solo in italiano. Ma in italiano non mi viene niente da dire. Allora stai zitta che è meglio. Tutto quello che è nuovo ci guadagna. È il progresso. E se non tornano? E se tornano e non ci riconoscono più? Meglio. Si vede che la nostra epoca è finita. È lì che il cerchio si è rotto. Perché ogni 100, 200, 300 anni, non si sa quando, arriva un'alluvione, o un gran vento, o un terremoto, che porta via la memoria, e non sai più di chi sei figlio, chi è tua moglie, chi è tuo marito, da dove vieni, e chiedi chi sono. Ed è allora che si devono interrogare i poeti. Perché mentre accadevano i cataclismi sono stati stretti a un albero con gli occhi aperti, le orecchie spalancate. Ma devi imparare a leggere, ad ascoltare quella lingua asciutta come un sasso. Noi volevamo cambiare il mondo, noi poeti. Stavamo fino a mattina nel bar dei miei genitori. Chi veniva con la bicicletta dalla collina, chi dal mare. Volevamo tenere nelle mani la nostra vita. C'è chi ha fatto il cinema a Hollywood. Chi come me è andato a Milano. Ma se non fosse stato per quei 4 sassi del mio paese, io non avrei scritto una riga, sai. Io li vedo ancora, quegli uomini e quelle donne. Mi si sono impressi quando ancora non lo sapevo. E sono loro che parlano, non io. E le poete? Le poete. Le poete. Ce n'erano ma poche. Perché, come scrisse una grande autrice, le donne, fino a pochissimo tempo fa, le poesie le facevano in un altro modo. Il tempo era poco. Bisognava mettere al mondo i figli, allevarli, badare le case, cucinare, trovare il modo di mettere insieme i soldi per i vestiti, vendere qualche pulcino al mercato. E allora le poesie le facevano così, piantando un fiore o magari ricamando quei corredi che quando li vedo sparsi nei mercatini me li vorrei comprare tutti. Erano preziosi, custoditi come l'oro nelle cassapanche. Le poete, come tua madre, mi dice la Gemma, facevano le poesie anche così, con una catasta di legno nel camino che bastava un fiammifero e prendeva fuoco. Io sono una poeta, anch'io. Io la Gemma. No, non ho studiato, ma fin da quando ero nel bar dei miei mi venivano le rime. Mi si è seccata un po' la vena soltanto quando ho fatto la bidella e ho dovuto tirare su le bambine. Ma bastava che dovesse andare qualcuno in pensione e la vena mi ritornava, eh? La vita è un lampo che agli umani non dà scampo. L'amore è un gran dolore che spesso spacca il cuore. Allora le mie bambine mi dicono: mamma, ma sei una tragedia. Non sono io che sono una tragedia, è la vita che è una tragedia. Ma quando la scrivo in poesia mi si apre il cuore. È come se si spaccasse il cielo ed esce il sole, no? Ma comunque sono brave le mie bambine. Cosa dici, Silvio? A Silvio io parlo ogni sera, a lungo. Gli chiedo consiglio su qualsiasi cosa. Quando l'ho incontrato, stavo lavando i bicchieri nel bar. L'ho visto? Beh, le mani sono diventate molle e mi sono caduti tutti i bicchieri per terra. Cosa fai, Gemma? Chi è quello là? Raccogli subito i bicchieri, non è per te. Tu hai 18 anni, quello 34. Ed è fidanzato. Via, via, via, via, via. Ma io non ho avuto pace finché non gli ho detto una sera: ma lo sa che un uomo come lei può piacere anche a una ragazza come me? E lui è venuto tutte le sere nel bar. Veniva a sentirmi cantare, perché io cantavo. Però mi ha detto che quando ci saremmo sposati avremmo dovuto smettere. Ma intanto facevamo una prova, perché magari era un'infatuazione. Una sera che ho avuto tantissimi applausi, alle 6 del mattino è suonato il telefono nel bar. Io ci sono, ti sposo. Oddio, che paura. Ma non potevo mica rinunciare adesso, l'avevo voluto contro tutti. E allora ho detto sì. Era ancora buio, come fossimo due delinquenti. 7 anni è durata, ma per me vale una vita. Non cambierei un giorno che ho vissuto accanto a Silvio. Parlo con la fotografia e lui mi ascolta. Ti piacciono i fiori di plastica che ho messo al cimitero? Perché quelli veri costano, poi sono vecchi, adesso faccio un po' fatica. Sì che ti piacciono, me l'hanno detto anche gli altri morti. Parlo anche con loro, sai. Gli tengo compagnia quando non viene nessuno a trovarli. Cosa dici? Guarda chi arriva là. Guarda. Coi capelli bianchi in nuvola e un carrellino blu. Shandines. Sono vecchia, sono nuova. Sono vecchia, sono nuova. Io mi sento nuova, nuova, nuova, nuova, nuova. Come gli uccellini nel cielo. Come i fiorellini in primavera. Quanti anni mi dai? Una volta dicevo 37 al contrario. Poi sono arrivati gli 89, non funzionava più. Diventavano di più. Allora dico 93. 93. E nonostante una vita accanto al petrolchimico, che lo sapevamo che i nostri uomini sarebbero morti presto, per quello ci aiutavano tanto, per quello li venivano a prendere quando stavano male. Io invece mi sono tenuta bene con la misura, e scrivendo sempre i miei pensieri. Anche quando ero piccola non avevo la carta e li scrivevo per terra, firmato Ines. Non ci potevo andare a scuola perché ero l'ultima di 8 fratelli. Abitavamo sulle montagne e ci volevano le scarpe per andare a scuola. La più piccola, ma intelligente, diceva la maestra. Niente. Io mi son fatta su scrivendo poesie, lettere, i miei pensieri, il mio diario, sempre. Che essere piccoli, poi quando c'è la guerra c'è da guadagnarci perché i soldati non ti vedono, io invece ho visto tutto, le mie sorelle invece le hanno viste, poverine, sono tornate che non parlavano più. Io me lo ricordo, mio zio, me lo ricordo lo zio e mio fratello che stavano nella curva, gli stavano per sparare. È arrivato il comandante e ha detto: voglio vedere i documenti. Gli hanno fatto i documenti, ma questi li conosco. Lui è il fidanzato della mia donna di servizio. Hai capito che cosa vuol dire il nome e il cognome? Quanto è importante scrivere e sapere. Che quando mi è venuto il Covid, che i miei figli mi hanno tenuto tappata 2 anni in casa e poi me l'hanno attaccato loro, allora sì che me lo tenevo il documento qui, perché andavo via con la testa. Ci vuol poco, che dicono sei fuori, chissà dove ti portano. E pensavo, devo tornare indietro. E avevo lì il mio quaderno delle poesie, il diario, che diventavano sempre più grandi finché riuscivo a leggere Ines. E sono tornata indietro e sono qui, hai visto? Col carrellino. Ma lo porto per un po', poi me ne libero. Adesso però ci metto i fiori bianchi dell'acacia. Poi li frigo e li mangio. Ne vuoi anche te? Ma te non sei capace di friggere, non sei capace di fare niente, te. Te le faccio io le tagliatelline verdi, tagliate fine fini con la faccetta, voilà. Cos'è quella faccia? Sei preoccupata? Per le guerre, gli incendi, i cataclismi, i terremoti, le inondazioni? Ma è normale, è Armageddon. Puoi chiedere aiuto, a Cristo, a Buddha, a Confucio, qualcuno libero lo trovi. Loro non litigano mai, siamo noi che litighiamo. Io non vedo l'ora che finisca il mondo, così ritrovo la mia mamma e le chiedo come ho fatto a mettermi al mondo da sola. Tagliare il cordone ombelicale, lavarmi, buttarmi lì sul letto, poi andata da mangiare ai bachi da seta che avevano più bisogno loro di noi bambini. Come hai fatto, mamma? Dai, non essere preoccupata. La mia mamma mi direbbe: conta su di te. Ed è quello che dico io a te. Contaci. Che conta anche se sei da sola, se ci credi. E si cammina. E la pianura diventa collina, e poi pianura ancora. E scavalca. Cadaveri di soldati sgozzati. Diventa dritte, capelli neri. Entra nella casa vecchia, si siede davanti al tavolo, prende un pezzo di pane, lo mangia e ride. È una bambina. Bella burdella fresca e campagnola. Dai o c'è dai caval come carbone. Dalla bocca più rossa d'na sarzola, te ci la mi passio. Batti bat e screca un or, screca un or e batti bat. Alfa semia ste barà, damus chaf cadec un bes, dammi uno schiaffo che ti do un bacio. Ora la casona vecchia è vuota e ha paura. Ha ragione ad avere paura, perché costa troppo di IMU. Allora arrivano di notte, sfondano il tetto e via. Arrivano le multinazionali con le grandi macchine. Spariscono i fossi, spariscono i grilli, le rane. Sparisce la stalla. La campagna sembra ammalata. Restano dei buchi nel paesaggio. Mi guardano gli uccelli impagliati di lino e mi dicono: quanto dureremo? E chi lo sa, è tutta quella roba accumulata dentro le case. Ma anche le casone nuove hanno paura. quelle che hanno costruito perché fossero eterne lungo il viale. Quella del dottore, dell'ingegnere, la mia casona nuova con tutte quelle rose. Hanno gli occhi ciechi. Anche quelle costano troppo. Sono invecchiate come vecchie signore che nessuno va a trovare. Le mie nipoti mi hanno costretto a vendere la mia. Sono andata all'agenzia. Ho trovato un ragazzo coi capelli dritti di gel, sguardo rapace, nel profilo WhatsApp c'è scritto: la coerenza è per chi non ha idee. Auguri. E dietro mi guardano mio padre, mio fratello, gli avi. Scuotono la testa, sorridono e capiscono. E io mi dico: ma come ho fatto a perdere le voci delle case? Dove si rifugieranno i fantasmi? Ora, chi li ascolterà? Io ce l'ho la fissa di filmare tutto, ma ho perso proprio le cose che amavo di più. Perché se provavo a fermarle era come se accettassi che sarebbero sparite. Non ti preoccupare, dice Aldino del circolo fotoamatori. Tanto le cose che contano non si riprendono mai. O guardi da un'altra parte, o ti dimentichi di spingere rec, oppure ti cade l'hard disk per terra, o fai una gran confusione di tutto come è successo a me. Cosa dici, Stefano? Mi aiuti a mettere in ordine? Adi, io ti aiuto, ma in queste filmine ci saranno 1000 film, la banda, tutti gli abitanti del paese, da grandi, da piccoli, da vecchi. C'è una grande confusione. Come facciamo a mettere ordine? Non importa. Tu filma, filma, filma, pur sapendo che quello che conta non lo riprendi mai. Come mio babbo, che guardava le rose sfiorire e diceva: non importa morire, si nasce belli e si muore belli. Che poi pare che dei vecchi, che hanno tanto da dire, non gliene importi niente a nessuno. Ma io, Stefano, li vado a intervistare perché mi piace come si muovono. Poi dicono che porto sfiga, che dopo gli intervistati muoiono. Ma è solo perché mi piace coglierli quando son più ricchi. Le case vecchie, la roba vecchia, non si vende, te lo dico io. Io che ho la concessionaria della Fiat, che ho riempito di grammofoni, vecchie cartelle, macchine fotografiche, vecchie macchine, auto, motoscafi che non si usano più, perché ho nostalgia di com'era questa strada, piena di botteghe di artigiani, il fabbro, il falegname, il vetraio, era una festa per noi bambini. Le cose vecchie non interessano nessuno e io passo le serate a ascoltare Louis Armstrong nel grammofono. Vedrai, la tua casa la comprano gli albanesi e i rumeni, che sono come eravamo noi. Noi non facciamo più figli, loro sì, le mettono a posto. Ma io sono contenta. Sono contenta che si mescolino le storie. Perché si sono estinti gli antichi egizi, perché non dovremmo estinguerci noi? Chi siamo? A meno che, come dice la Carla, non venga la siccità. Sì, perché è un'insegnante, la Carla, che vive anche lei da sola in una casona. Una volta qui era pieno di garzoni che venivano giù dalla collina, avevano bisogno di lavorare. Ci divertivamo, le estati era una roba, lavoravamo, ma ci divertivamo. Adesso la terra l'ho dovuta dare agli stranieri. È da allora che abbiamo fatto dei danni, dei danni. Loro cercano di lavorarla, di rimediare, ma abbiamo dato tanti di quei veleni, come se prendendo medicine, più ne prendi, più tu durasse la tua vita. Non è mica così. E infatti, tirando giù gli alberi, dando i veleni, sono venuti degli insettaci che si mangiano le pesche da dentro, capisci? Non muoiono mai. Guardalo quel campo giallo là, com'è bello. Vorresti andare là a raccogliere una bracciata di fiori? No! Sono fiori da seme. Tu muori, eh? Perché? sulla riva del mare, le hai viste le tartarughe che vengono ad agonizzare coi tappeti di conchiglie? Loro fanno le piattaforme là a largo e per ripagare i cittadini fanno delle gran passeggiate di legno sulle dune. Ma i pesci muoiono, hai capito? E beh, allora, andando avanti così, magari si estingueranno tutti, anche se sono tanti. I rossi, i gialli, con tutta la spazzatura che gli mandiamo. E dire che i poeti ci avevano avvisato nella loro lingua antica. Il mondo è una pallina che si increpa. Dobbiamo tenerlo leggero, sulla punta delle dita. Custodire le razze dei pesci. Noi, che siamo quelli che dovranno morire. E piove, piove, piove, piove, piove. E piove, piove, la natura ci ha dato una zampata, stavolta si è arrabbiata. La mia terra è tutta una crepa e l'acqua si infila dappertutto con le braccia lunghe, nuda. Viene giù dalle montagne, porta via le colline, riempie i fiumi, rompe gli argini, i ponti, straripa nei canali. Il mare in tempesta non la prende, cancella i campi, invade i paesi, allaga le case, i teatri, le biblioteche. Diventano grotte dove nuovano i pesci, disorientati. I folletti salgono sulla cima degli alberi. Le donne si rifugiano tra le canne con le loro barche d'argento. Scappano via tutti gli animali. Per le lepri e i ricci non c'è più niente da fare. Ma quel contadino ha 100 maiali, li vuole salvare a uno. E quella donna cammina in mezzo all'acqua nera con una gallina in braccio. Arriva il giornalista. Siete in ginocchio? In ginocchio. In ginocchio mai. E vanno in giro per tutta la notte con le jeep, finendo nei fossi per vedere se c'è qualcuno da salvare. È tutto un lago e le case vomitano, vomitano mucchi di roba grigia, viscere. Se ci vedessero da Marte, chissà cosa penserebbero. A che serve tutta quella roba? Arrivano i volontari, gente di ogni età. Le tavolate, c'è da mangiare per tutti. Telefonano a casa, stiamo aiutando. Arrivano i ragazzi, gli angeli del fango. Basta con sta stronzata degli angeli del fango. Ci siamo dati appuntamento con WhatsApp e finalmente siamo utili a qualcuno che nemmeno conosciamo. È bello! E c'era bisogno di un'alluvione, di un cataclisma. E piove, piove, piove. E piove, piove, piove, piove. Io una pioggia così non l'avevo vista mai, nemmeno quando ero un ragazzo. Mai. Bussano alla porta, bussano e mi dicono apri. Io non apro. Io qui in casa mia mi oriento, so chi sono. Fuori non capisco niente. Mi guardo allo specchio e dico: complimenti Sisto per gli 84 anni. Non prendi neanche una medicina, solo una pillolina per la pressione. Dicono che devo aprire, che è pericoloso, che l'acqua sale, che sono solo. Ma io solo non sono. Mi basta fare un cenno. Ehi! Gigi! Vieni, vieni, vieni, vieni! Non ti far vedere! Entra! Hai fatto un altro mobile? No! Tutto di legno? Dai! Cosa dici, col fabbro che ha fatto un fiore da un tondino di ferro? Ma! E cosa ha detto tuo nipote? Ah, che non si intona coi mobili nuovi! Dile che è una cretina! Che la bellezza si intona con tutto! Va, va, va, non mi far arrabbiare! Oh, ehi! Hai visto come piove? Sembra proprio come quando andavamo a pesca, che buttavamo la lenza, se abboccava un pesce ci dispiaceva, lo ributtavamo giù e andavamo a Porto Garibaldi a comprare le acquadelle per fare bella figura con le donne. Le donne, là, nella cucina, c'è la Norina, la moglie di Gigi che mi è sempre piaciuta. Anche adesso, anche da vecchia, quella treccia, sembra una diva di Hollywood, una regina. Va. No, non l'ho mai detto a nessuno. Ma se non dico la verità in questa situazione, quando la devo dire? Con l'acqua che sale, sale, sale. E per fortuna è andata via l'elettricità. e si è spenta la televisione con tutte quelle cazzate che dicono. Che è colpa di questo, che è colpa di quello. È colpa di tutti, porca miseria! Delle fragole a febbraio, che vogliamo sempre tutto, sempre! È colpa del mio vicino, che se gli cade una foglia del mio albero mi denuncia. È colpa di quelle stese di cemento. È colpa che non l'avete chiesto. Come si faceva una volta, che il mondo era un giardino. Adesso il giardino è solo il tuo piccolino, con la tua aiuolina. A me non piace questo mondo chiuso. M'hanno fatto arrabbiare. È colpa del geometra del comune, con quei muretti bianchi di granito. Ah! È colpa che li buttate giù gli alberi invece di piantarli. Vabbè, hai ragione, Morina. Adesso mi calmo. L'acqua sale. E bussano e non vi apro. Che cosa hai fatto da mangiare, Norina? La minestra in brodo? Oh, con questa pioggia è proprio quello che ci vuole. Mi sembra quasi di essere il Sisto dei 35 anni. O dei 25. Ma se ho 25 anni, allora... Allora tu, Norina, non sei sposata con Gigi. Allora possiamo far due chiacchiere e una giratina, eh? Cosa dici? Non facciamo mica niente di male. Perché ridi? E l'acqua sale. E sale. E bussano. E io non gli apro. Io non ho paura. Vieni, Massem, che ti asciugo la bicicletta. Non ti fare catturare. E vieni anche te, Attilio. E anche te. Ci chiudiamo tutti qui. Noi che abbiamo imparato a nuotare nell'acqua del fiume. Quando era trasparente, la sabbia era fina. Noi non abbiamo paura. E l'acqua sale. Vuoi vedere che ha ragione la Carla e che è il diluvio universale? Vuoi vedere? E allora, noi che sembravamo re, all'improvviso abbiamo perso tutto. Quando c'è stata questa rivoluzione? E allora, se il mondo sta per finire, anch'io devo straripare, raccontare la vita di ognuno, la vita di tutti, il grande libro che raccoglie tutti i nostri pensieri, i nostri gesti, le ombre, le esistenze. Devo raccontare di quella ragazza che si è messa in mutande in mezzo alla strada perché la volevano coprire dalla testa ai piedi con un velo. Ed ora è tutta coperta di sangue. Dove sarà andata? Quella uccisa dalla sua famiglia perché voleva sposare chi voleva lei e non chi volevano loro. La giornalista esplosa insieme alla sua auto e a tutti i suoi documenti. Tutti coloro che sono stati trucidati negli stadi, quelli che hanno buttato giù dagli aeroplani, mezzo addormentati. Ne avrebbero da dire, ne avrebbero, e come se ne hanno da dire. Quelli che hanno aperto la porta ai nemici disperati, quelli che ascoltano ogni racconto e cercano di capire dove diavolo è la verità che non esiste. E voglio raccontare anche quelli che non ce l'hanno fatta, che senza volere sono passati dall'altra parte, quelli che hanno ferito, che hanno ucciso. E voglio capire perché. Non voglio avere paura di raccontare la storia di nessuno. Le storie si mescolano tra loro e continuano per sempre. Ogni storia è una pagina di un grande libro che non finisce mai e dove non riuscirò a scrivere io. Comincerà qualcun altro che io non so. Con Elena Bucci della compagnia Le Belle Bandiere per presentare lo spettacolo Il Grande Libro, Canto alla Libertà. Ben trovata! Salve, è sempre un piacere. È sempre un piacere partecipare a tutto quello che fa questa radio e parlare con te. È un piacere reciproco. Raccontaci un po' di questo progetto. Questo progetto ha molte radici e molte voci, viene da lontano. A un certo punto nella mia scrittura ha preso molto corpo tutto quello che riguarda la Romagna, cioè la terra dove sono nata, ma non nel senso né nostalgico né tantomeno campanilistico, ma come se tornare dentro la mia terra, in qualche modo andare in profondità in quello che non ho conosciuto, in quello che non ho avuto il tempo di vedere, mi ha dato modo di analizzare quella frattura pazzesca di cui ha parlato benissimo Pierpaolo Pasolini e molti altri prima di me e molto meglio di me. Però a mio modo ho riflettuto attraverso il teatro, attraverso la raccolta di storie, di ritratti, di personaggi, di atmosfere, di luoghi, ho riflettuto su quella spaccatura molto forte che per la Romagna è stato il boom economico della Riviera, per me che sono della Bassa Romagna, quindi quella spaccatura tra un sapere antico che non ci è stato trasmesso, perché le nostre generazioni di vecchi si vergognavano quasi, come se quello che sapevano, che si trasmetteva attraverso il fare, attraverso le tradizioni antiche, insieme anche a tutte le superstizioni, non sto inneggiando al passato sempre meglio, però ha una grossa perdita, una grossa frattura, e quella frattura per me è stata una grandissima fonte di ispirazione, anche di ricerca, perché andare in cerca della frattura nella terra che conosco bene mi ha permesso di allargare lo sguardo poi al mondo intero, che è quello che poi interessava tanto anche a me. Come hai scelto le persone con cui conversare e quante sono state? Sono state tantissime. Io ho sempre avuto una grandissima curiosità, fin da quando proprio feci uno dei primi lavori, era una persona illustre, era Eleonora Duse, ma sempre in Romagna la incontrai in un palazzo abbandonato come maestra fantasma, quindi l'interesse per le biografie, non il rapporto di causa effetto, ma proprio per il romanzo che le vite contengono, è cominciato dal lavoro sulla Duse, ma secondo me ancora prima, la biografia, il dato delle persone famose ma anche sconosciute, mi ha sempre affascinato tanto, è un materiale che è sempre entrato nella mia scrittura, è sempre entrato nei miei pensieri, come immagine, come un appunto preso, come una storia che mi ha particolarmente colpito, e alcune di queste storie si sono incastrate con forza, alcune si sono mescolate, poi nel momento in cui le scrivo cambiano naturalmente, come dico nel lavoro, le storie vere sembrano inventate, quelle inventate vere non si sa più, ed è una bellissima zona dove stare, perché non si sa più che cosa, a chi appartiene, è un fiume di biografie contraddistinte, come fu nel caso di Autobiografie di ignoti, che è stato anche quello dedicato proprio a questi ritratti di persone in un bar che poi diventano una storia più grande, più ampia, sono contraddistinte da una tenacia nel tenere fede alla loro natura, il che non lo vedo come intestardirsi nei propri limiti, ma nel reagire al conformismo, nel reagire alla forza pazzesca che ha la pubblicità che si infiltra dappertutto, anche in ambiti culturali, e nel provare sempre a sentire qual è la nota vera che ci risuona dentro. Detto così è facile dirlo, difficile farlo, però ho come una specie di piccolo campanellino quando sento risuonare questa parola di resistenza a tutto quello che ci omologa e che ci fa perdere la meravigliosa differenza che ognuno di noi è. Quella differenza che testimonia anche di una possibilità di costruire vite sociali, gruppi, comunità dove sia rispettata la differenza di ognuno e che diventa un elemento di gioia, di sorpresa, per non parlare poi di talenti individuali. E quindi tutto questo è in qualche modo il brillio che poi mi attira anche nelle vite più apparentemente, come si dice convenzionalmente, più oscure, come se potessimo permetterci di dirlo, ecco. Che struttura hai dato a tutto questo? La struttura è totalmente mobile. Noi andremo ad ascoltare una versione pensata per un luogo all'aperto, in un uliveto, durante festa ambiente. Io avevo già lavorato su altri ritratti nuovi che avevo raccolto in occasione del 25 aprile, poi di altri lavori che riguardavano in modo specifico anche alcune vite nella storia, come a volte la grande storia ti acchiappa e ti trascina, e anche come rimanere padroni della propria storia dentro il fiume della grande storia. Quindi ogni versione di questo lavoro si chiama Il Grande Libro e il progetto è Canto delle Vite Infinite, perché ha molte, molte, molte diramazioni diverse e molti ritratti che a volte vengono presi, a volte lasciati nel loro angolo. Ecco, in questo caso la struttura è stata data anche dalla scelta di avere accanto a me non il pianoforte come in altri casi, ma le percussioni, e nel portare ancora di più verso la questione importante della libertà, perché ci vergogniamo quasi di nominare certe parole, no? La libertà, l'autonomia di pensiero, ce ne vergogniamo tanto, abbiamo talmente paura della retorica che a volte le accantoniamo troppo, ecco. Quindi mi sono avventurata affrontando il rischio, cercando di tenere lontana la retorica, ma avvicinandomi anche a questa questione della libertà che sta diventando sempre più pressante e importante, e quanto la determinazione della libertà di uno si possa permettere di influire sull'altro. Dico delle cose veramente dette così, sono banali, ma quando si riflettono nella scelta di persone che hanno rinunciato anche al loro stesso lavoro, alla stessa professione per inseguire un ideale di libertà di tutti, quando si riflettono proprio nelle storie personali, nella capacità di diventare poeta di una donna analfabeta, in tante miriadi di storie che adesso mi vengono come tanti bagliori, ecco, attraverso questi ritratti e una sorta di comunicazione tra questi ritratti mi sembra di poter parlare di quello che mi sta a cuore, alludendovi e eludendo il rischio di essere troppo concettuale o retorica, di voler esibire delle verità che non ho, ecco, come sempre solo domande. Le musiche? In questo caso abbiamo alcune versioni di questo lavoro che è un fiume, forse infatti il prossimo si chiamerà Dal fiume ribelle perché è diventato proprio un grande fiume che porta con sé tantissimi materiali. Ci sono sia registrate le musiche di Cristian Ravaglioli, che è un artista compositore che vive in Romagna, che ha fatto uno stupendo lavoro di rielaborazione delle musiche tradizionali romagnole, portandole in altri campi. Cioè, c'è veramente un manipolo di musicisti straordinari in Romagna, poi Simone Zanchini, c'è Puglisi a Bologna, che sono riusciti veramente a coniugare delle tradizioni popolari profondissime con la musica contemporanea, facendo dei lavori splendidi. Quindi Franco Naddei ha intrecciato le mie parole con la musica di Marco Zanotti alle percussioni, anche lui polistrumentista, ma con particolare interesse verso le percussioni, e quindi abbiamo costruito, come tu hai potuto sentire, un melologo, un intreccio dove ci sono degli appuntamenti, ma dove ci lasciamo anche ispirare vicendevolmente con delle parti di improvvisazione per quanto riguarda il modo di dire o di dire cantando o di suonare dicendo che abbiamo insieme. Il grande libro Canto alla libertà. Un saluto e un ringraziamento ad Elena Bucci della compagnia Le Belle Bandiere. Complimenti. Grazie sempre a voi per il vostro interesse e la vostra passione. Dal Letterature Festival 2025, Isabella Aragonese con La breve vita felice di Flannery O'Connor. 28 luglio 1956. Mio padre avrebbe voluto scrivere, ma non ha avuto i soldi, l'istruzione o le tante altre opportunità delle quali ho potuto godere io. Non posso coltivare un'idea romantica di lui perché mi porto dietro quasi tutti i suoi difetti e i suoi gusti, o addirittura la sua stessa costituzione e la stessa malattia. Si chiama lupus. Al tempo in cui si è ammalato lui, non esisteva una cura e si finiva dritti alle pompe funebri. Quando è morto, mia madre ha chiesto al dottore se la malattia potesse essere ereditaria, ma il dottore ha risposto no, di non aver mai sentito che si fosse verificata due volte nella stessa famiglia. 10 anni dopo me la sono beccata anch'io, ma a quel punto poteva essere tenuta sotto controllo anche se non c'era una cura vera e propria. In ogni caso, qualunque cosa io ottenga con la scrittura mi rende ancora più felice, perché la considero un modo di realizzare quello che mio padre sognava per sé. 12 febbraio 1954. Da un po' ho cominciato a zoppicare parecchio, ma mi è stato detto che non ha niente a che spartire con il lupus e che è la conseguenza di un reumatismo dell'anca. Immagino mi dicano la verità, perché in caso contrario avrebbero aumentato il dosaggio di ACTH. In ogni caso, mi secca non poco aver tollerato il lupus per 4 anni e poi ritrovarmi menomata per colpa di un reumatismo dell'anca. Una malattia come minimo volgare. Non sono in grado di camminare dritta, ma non sono così malconcia da aver bisogno di un bastone. Perciò do sempre l'idea di essere continuamente ubriaca. 30 settembre 1955. Se sono ridotta con le stampelle, non è per via di un incidente o di uno svuotamento di energie dovuto alla malattia, ma di un problema all'anca. L'osso si è ammorbidito a causa di un difetto circolatorio. I medici dicono che se per un paio di anni riesco a non caricare il peso sull'anca, l'osso potrebbe tornare a indurirsi. In caso contrario, quando sarò vecchia, sarò quella che sbraiterà contro la gente da una sedia a rotelle, oppure dovrò farmi mettere una placca d'acciaio. Comunque, per me non è un inconveniente serio, come potrebbe esserlo per qualcun altro, perché non sono un tipo sportivo. Non corro e non faccio attività fisica. Negli ultimi anni la mia fatica e la mia soddisfazione più grande è costituita nel gettare l'immondizia alle galline. E questo posso ancora farlo, anche se rischio di volare via insieme alla spazzatura. 6 novembre 1955. Ti sono davvero obbligata per avermi spedito una copia della recensione del mio libro e sono molto sorpresa e compiaciuta che una rivista cattolica abbia deciso di esaminarlo e affidarlo a una persona intelligente. Spesso il silenzio del critico cattolico è preferibile alla sua attenzione. Do sempre un'occhiata alle riviste cattoliche che legge mia madre per vedere se il mio libro è stato recensito e quando scopro che non è successo, recito una preghiera di ringraziamento. Le cose non dovrebbero andare così, no? Dal mio punto di vista, il silenzio che mi riservano i cattolici è tanto più ironico in quanto io scrivo come scrivo perché, e soltanto perché, sono cattolica. Sento che se non fossi cattolica non avrei nessun motivo per scrivere, nessun motivo per vedere, nessun motivo per provare orrore o piacere di fronte a qualcosa. Sono cattolica dalla nascita, ho frequentato scuole cattoliche durante l'infanzia e non ho mai lasciato o desiderato di lasciare la Chiesa. Non ho mai avuto la sensazione che essere cattolica fosse un limite alla libertà dello scrittore, anzi, il contrario. La signora Tate mi ha detto che dopo essere diventata cattolica ha sentito di poter usare i suoi occhi e accettare ciò che vedeva per la prima volta, di non dover creare un nuovo universo per ogni libro, ma di poter utilizzare quello che trovava. Per quanto riguarda me, sento che essere cattolica mi ha risparmiato di dover trascorrere un paio di millenni imparando a scrivere. 10 novembre 1955. Ho intuito che devo essere uno spettacolo decisamente patetico con queste stampelle. L'altro giorno ero ad Atlanta, da Davidson. Una donna anziana è salita in ascensore dietro di me e non appena mi sono voltata, mi ha fissato con gli occhi umidi e ha detto ad alta voce: "Che Dio ti benedica!" Mi sono sentita esattamente come il balordo del mio racconto e le ho lanciato un'occhiata vagamente letale che deve averla incoraggiata ulteriormente perché mi ha afferrata per un braccio e mi ha sussurrato in un orecchio, ma in tono alto: "Ricordati di cosa hanno detto, cosa ha detto Giovanni quando si è presentato ai cancelli del cielo." Non ero ancora arrivata al piano, ma sono scesa ugualmente. Scommetto che quella vecchietta è rimasta a bocca aperta nel constatare quanto fossi veloce con le stampelle. Ho un'amica che ha una gamba sola e le ho chiesto cosa avessero detto a Giovanni quando si era presentato ai cancelli del cielo. Mi ha risposto che, da quanto ricordava, gli avevano detto: "Gli storpi entreranno per primi." Ed è vero, immagino. Forse perché gli storpi possono buttare per terra tutti gli altri a colpi di stampelle. 12 novembre 1956. Ovviamente hai ragione quando affermi di non capire le emozioni ordinarie più di quanto tu capisca quelle straordinarie, ma lo scrittore non deve capire, bensì produrre. E ciò che lo porta a produrre non è vivere un'esperienza, ma contemplarla, Il che non significa capirla, ma semmai capire che non la capirà mai fino in fondo. 29 novembre 1956. Se non sono troppo severa quando valuto i manoscritti di altre persone, ci sono varie ragioni, ma la principale è che il significato di un'opera mi interessa decisamente poco. La cosa potrà sembrare strana, perché sono senza dubbio convinta che ogni storia abbia un significato, ma il significato di una storia non può essere parafrasato. E quando è presente lo è in un senso quasi fisico, più che intellettuale. Chi insegna scrittura non è molto più che una levatrice. Dopo aver dato una mano a partorire un'opera, non è elegante dire: «Madame, la sua creatura ha due teste e non crescerà mai». Personalmente mi limito ad annunciare se la creatura è viva o morta. 17 novembre 1957. L'altro giorno ho parlato con un ragazzo di 23 anni che aveva appena ultimato gli studi ad Harvard e che voleva diventare uno scrittore. Non l'avevo mai sentito nominare, ma mi ha telefonato e mi ha chiesto se poteva raggiungermi da Atlanta e trascorrere un pomeriggio con me. Dopo che gli ho risposto di sì, ha aggiunto che avrebbe portato con sé un manoscritto. Per farla breve, è venuto, è rimasto tutto il pomeriggio e non è stato necessario che dicessi niente. Ho dovuto soltanto starlo a sentire. Stava scrivendo un romanzo molto filosofico, o così credeva, su un ragazzo terribilmente simile a lui che si sarebbe suicidato all'ultimo capitolo. Tutti i capitoli che portavano a questo suicidio erano dedicati a spiegarne le motivazioni ed erano pieni di riflessioni sul senso del tempo. Mi ha spiegato che, pur essendoci diverse lunghe digressioni filosofiche, erano sempre intervallate da vere e proprie scene. Me ne sono fatta assorbire una in particolare, nella quale si trattava dell'amore. A quel punto ero troppo stanca per scoppiare a ridere, perciò mi sono risparmiata una figuraccia. Ho provato a suggerirgli con discrezione che i romanzi e i racconti parlano di persone vere e non del senso del tempo. Ma sono sicura di non averlo minimamente impressionato. 10 dicembre 1957. Di recente soffro di vertigini perché sto prendendo una nuova medicina e devo essere andata in sovradosaggio. Credo perciò che me ne resterò a casa, a barcollare qua e là. Ci vuole un po' di tempo prima di trovare il dosaggio giusto. Ogni volta che inventano qualcosa di nuovo, sono fra le prime persone a sperimentarlo. Nei 7 anni che sono trascorsi dalla diagnosi di lupus, sono stati brevettati 5 nuovi farmaci, uno migliore degli altri. Dicono. 1 giugno 1958. Siamo andate in Europa e sono sopravvissuta. Ma la mia capacità di restarmene a casa è stata portata alla perfezione ed è destinata a durare per tutto il resto della mia vita. Le folle non erano poi così male, ma è durato tutto troppo poco ed è stato consumato troppo in fretta. Ho scoperto che le stampelle sono di grande beneficio. Non c'è stato un solo aereo sul quale non sia stata fatta salire per prima. Le mie stampelle sono di alluminio e a quanto pare nessuno in Europa ne ha di simili. Mi guardavano tutti a bocca aperta, prendendosi tutto il tempo necessario, soprattutto gli italiani. Lourdes non è stata poi così male, almeno rispetto alle mie aspettative. Qualcuno a Parigi mi ha detto che il miracolo a Lourdes consiste nel fatto che non ci sono epidemie. E ho potuto constatare di persona anche la pura verità. L'acqua delle vasche viene cambiata una volta al giorno, a prescindere da quanta gente ci si immerga. Io sono andata la mattina presto ed era ancora limpida. Mi sono seduta in mezzo a una lunga fila di contadini aspettando il mio turno. Hanno fatto girare un termos pieno di acqua di Lourdes e hanno bevuto tutti attaccandosi alla bottiglia. Io ero raffreddata di brutto, perciò credo di aver seminato molti più germi di quanti possa averne assorbiti. Il saio che indossi prima di immergerti è lo stesso che portava la persona prima di te, a prescindere da quali potessero essere i suoi malanni. Se non altro, non c'erano convenzioni sociali da rispettare, al netto di un concetto di igiene decisamente medievale. Ho visto solo contadini e sentivo chiaramente l'odore emanato dalla folla. Il sovrannaturale è un dato di fatto a Lourdes, ma non prende il posto di niente che sia naturale, tranne forse tutti quei germi. 6 marzo 1959. Il sole sta restringendo di molto le mie attività e temo che continuerà a farlo in futuro. Il dottore dice che non posso uscire di casa senza indossare calze, guanti, maniche lunghe e un cappello a tesa larga. A quanto pare la luce del sole influisce sul lupus e sui problemi articolari, eccetera, eccetera. Lo spettacolo che offro vestita in questo modo per tutta l'estate deprime la mia immaginazione. 25 maggio 1959. Due settimane fa sono andata alla Wesleyan e ho letto un bravo uomo è difficile da trovare. Poi sono andata in una delle aule per rispondere alle domande del pubblico. C'erano un paio di insegnanti giovani e uno dei due, un tipo davvero scrupoloso, ha esordito chiedendomi «Signorina O'Connor, perché il balordo porta un cappello nero?» Gli ho risposto che in Georgia quasi tutta la gente di campagna porta capelli neri. Mi è sembrato molto deluso. Poi mi ha chiesto, signorino O'Connor, il balordo rappresenta Cristo, vero? Niente affatto. A quel punto era quasi distrutto. Beh, signorino O'Connor, ha detto, qual è il significato del cappello del balordo? Gli ho risposto che lo usava per coprirsi il capo. E a quel punto mi ha lasciato in pace. Credo che non esista sofferenza più grande di quella provocata dai dubbi di chi vuole credere. So quanto sia grande questo tormento, ma posso vederlo soltanto, almeno in me stessa, come il processo attraverso il quale la fede diviene più profonda. Una fede che si limiti all'accettazione va bene per i bambini, ma alla fine dei conti è necessario crescere religiosamente come in tutte le altre cose, anche se alcuni non ci riescono. Ciò di cui le persone non si rendono conto è quanto sia alto il prezzo della religione. Credono che la fede sia una grande coperta elettrica, quando in realtà la fede sta tutta nel portare la croce. Credere è molto più difficile di quanto lo sia non credere. Se senti di non poter credere, allora una cosa almeno la devi fare. Mantenere la mente aperta alla fede, continuare a desiderarla, continuare a cercarla e lasciare il resto nelle mani di Dio. 8 dicembre 1960. Quanto a me, ho altri problemi. Le ultime lastre erano pessime, sembra proprio che la mandibola stia subendo la stessa sorte dell'anca. Avevo già notato un cambiamento significativo nella postura della mia bocca. 29 dicembre 1960, sono stata in ospedale ad Atlanta e hanno scoperto qual è il motivo per il quale le mie ossa si disintegrano. Ne conseguono una serie di fatti interessanti. Cercheranno di ridurre progressivamente gli steroidi e controlleranno se riesco a farne a meno. Ma al momento le mie attività sono limitate, non posso fare praticamente nulla se non stare seduta in casa e scrivere qualche racconto. Ho dovuto annullare tutte le conferenze al Boston College, alla Brown, all'Università del Texas, perché tra poco dovrò andare in ospedale per essere operata. Ho suggerito che mi invitino nuovamente il prossimo anno, ma non so come si metteranno le cose. È successo tutto all'improvviso e certamente non me l'aspettavo. 21 febbraio 1964. A quanto pare finirò sul tavolo operatorio prima di te. Il farmaco funziona ancora bene, ma ho un tumore bello grosso. E se non si sbrigano a toglierlo di mezzo, andrà a finire che dovranno eliminare me e lasciare vivo lui. 8 marzo 1964. Sono appena uscita dall'ospedale dove i chirurghi mi hanno aperto lo stomaco. Dal loro punto di vista è stato un successo clamoroso e uno di loro scriverà un articolo per una rivista medica, perché di solito si pensa che non sia possibile operare chi ha il lupus. Ma l'intervento era assolutamente necessario, anche se il tumore non si è rilevato maligno. 20 marzo 1964. Sto bene per quanto riguarda l'operazione. È stato un grandissimo successo, ma ci sono sempre degli effetti collaterali e i miei sono una cistite e un'infezione renale. Altrimenti sarei di nuovo in piedi. Comunque spero che tu riesca a evitare l'operazione. Non è certo una passeggiata. 12 maggio 1964. Il mio stato è cambiato considerevolmente dall'ultima volta che avete avuto mie notizie. Sono dovuta tornare in ospedale e adesso non mi alzo più dal letto. L'operazione ha risvegliato la malattia, perciò ho dovuto ricominciare con il cortisone e non mi sento granché bene. In realtà non ho dolore, ma sono molto debole. Ieri mi hanno fatto una trasfusione, dopo la quale c'è sempre un recupero immediato di forze. Perciò oggi ho l'energia che serve per scrivere qualche lettera. Se il mio problema segue il suo corso più prevedibile, credo proprio che rimarrò a letto per tutta l'estate. Il lupus non era attivo dal 1951 ed è davvero curioso tornare a familiarizzare con la malattia. 16 giugno 1964. Oggi ho chiesto al dottore quando potrò tornare a casa e mi ha risposto che adesso possiamo cominciare a valutare l'ipotesi. Beh, comincia a farlo allora, gli ho detto, perché io non penso ad altro. Ho modificato la mia dieta, aggiungo un po' di sale. Siamo passati da 2 a 5 grammi al giorno. Devo andarci piano con le proteine perché i reni non riescono a ripulirle dai veleni e questo significa che non posso mangiare troppa carne, uova e formaggi. Tutte le cose che adoro. . 28 giugno 1964. Eccomi di nuovo qui davanti alla macchina da scrivere elettrica e mi sento bene, più o meno. Lavoro grosso modo 2 ore al giorno ed è più o meno il massimo cui sia mai arrivata. Ho chiesto al dottore se potevo stare seduta davanti a una macchina da scrivere e lavorare. Può lavorare, mi ha risposto, ma non può affaticarsi. Non ho ancora capito esattamente cosa intendesse, ma per il momento non mi sposto da queste due stanze e dalla veranda e non sono autorizzata a lavare i piatti. Ne devo dedurre che lavando i piatti mi affaticherei, mentre scrivere non è considerato un problema. 1 luglio 1964. Sono contenta di non poter ricevere visite perché questo mi dà la possibilità di incanalare tutte le mie energie sul lavoro che serve per fare uscire il libro. Devo fare in modo che venga pubblicato prima che la mia salute peggiori di nuovo. Se invece dovesse migliorare, ho altra roba nuova su cui lavorare. Il dottor Merrill mi ha fatto dimezzare la dose di prednisone perché la percentuale di azoto nel sangue è aumentata di un terzo. Da quanto ho potuto constatare, i farmaci e la malattia fanno a gara chi mi ucciderà prima, ma non sento cori angelici al momento, quindi devo dedurne che sto meglio. 8 luglio 1964. Sono stata molto debole e da quando il dosaggio del farmaco è stato dimezzato, io adesso sì, stiamo tornando a dosi più piccole da somministrare 4 volte al giorno, perciò sì, spero di poter recuperare un po' di energie. Ieri è venuto il prete a darmi la comunione, visto che a quanto pare ci vorrà del tempo prima che mi rimetta in piedi. Gli ho chiesto di darmi anche il cosiddetto sacramento dei malati, che un tempo si chiamava estrema unzione. Flannery O'Connor muore il 3 agosto 1964, a 39 anni. La raccolta di racconti cui ha lavorato fino all'ultimo, Punto Omega, viene pubblicata postuma nel 1965 con un'introduzione di Robert Fitzgerald, amico di una vita e destinatario di alcune delle lettere che vi ho appena letto. Dal Letterature Festival 2025, Isabella Aragonese con La breve vita felice di Flannery O'Connor. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 25esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli dal titolo Coexistence a Roma dal 18 al 28 settembre, a Toffia dal il 4 e 5 ottobre 2025. Ben trovata! Ciao, buongiorno! Spieghiamo cos'è. Il Festival Multidisciplinare Attraversamenti Multipli, all'interno di un arco progettuale che è iniziato nel 2022, si colloca anche quest'anno al Parco di Torre del Fiscale, all'interno di un ragionamento sulla relazione tra le arti performative del contemporaneo e la sostenibilità ambientale e sociale. E all'interno di questo ragionamento si colloca pure il tema, la parola, lo slogan che ci accompagna quest'anno, che è coesistenza. All'interno delle traiettorie che ci hanno accompagnato anche in questi ultimi anni, proprio di ragionamento di relazione con i paesaggi urbani naturali, si collocano un po' tutte quelle che sono le programmazioni, quelle che sono le performance e i spettacoli che andiamo a presentare. Partiamo il 18 settembre con una giornata che racconta già nel suo essere un po' quella che è l'anima, il cuore pulsante del festival, in quanto presenta all'inizio due performance di due artisti libanesi per la prima volta in Italia, due performance di danza però che anche hanno una forte componente site specific, quindi dire relazione con i paesaggi. Poi passiamo alle 8 con un momento di sconfinamenti tra linguaggi artistici, proprio con la performance che si chiama Sconfinamenti, che propone Rodrigo Delasmo e Nicola Galli, un ragionamento e un dialogo tra musica e danza. E poi abbiamo due installazioni che ci accompagnano in tutte le giornate, sono due installazioni sonore che sono state create in esclusiva per il festival, una di Roberto Latini e Gianluca Misiti, Tre balene, quindi un viaggio verso l'acqua, e un'altra è stata creata e curata dalla Casa d'Argilla su dei testi di Scabbia, si chiama Lettere al lupo, quindi anche qui abbiamo un ragionamento sul mondo animale. Tra l'altro a Scabbia il festival quest'anno dedica anche un focus che ci sarà il 20 settembre, è proprio sulla sua opera, ma soprattutto sul suo ragionamento di portare il teatro fuori dal teatro, che è un po' un pilastro anche del percorso del festival, che ha sempre in questi 25 anni è stato nomade, ha cambiato molte volte spazi, ha attraversato spazi diversissimi della città, passando da spazi urbani a luoghi rigenerati e adesso nei parchi urbani pubblici, però sempre questa attenzione allo spazio pubblico e a un ragionamento di prossimità anche con gli spettatori, con le comunità che incontra. E all'interno del 18, finisco di raccontare sulla prima giornata, c'è una performance che è Coexistence, che prende il titolo del festival, che è una performance video, che crea una dinamica video visuale sulle arcate degli acquedotti, che diventa un po' dei schermi dinamici, perché per chi non conosce il Parco di Tor Fiscale, che è un parco molto bello, un luogo un po' di sincretismo tra antico e contemporaneo, al parco che fa parte del Parco Archeologico della più antica ci sono due acquedotti romani e una torre medievale, quindi è un posto anche molto interessante dal punto di vista paesaggistico, di biodiversità e quant'altro. Poi le altre giornate sono il 19, il 20 e il 21, e poi riprendiamo la settimana successiva, sempre dal giovedì, quindi il 25, 26, 27, 28. Il programma è sempre articolato su diversi linguaggi artistici, quindi con performance di danza, di teatro e di musica e multisite specifica. Abbiamo tutta una serie di performance itineranti che si muovono nello spazio del parco, alcuni formati che amiamo molto, che propongono anche un po' delle pratiche, che sono dei formati performativi che ragionano anche sul creare uno spazio di condivisione, di abitare insieme uno spazio tra compagnie, performer e spettatori, come per esempio la dimensione che propone MK il 21 nel pomeriggio, la dimensione anche che propone Dom il 28 l'ultima giornata. C'è uno spettacolo dedicato alle nuove generazioni di spettatori, Alberi Maestri Kids, che è rivolto a un pubblico di giovanissimi dai 4 anni in poi, è un percorso di teatro immersivo nel parco che il 28, sia la mattina alle 11:30 che alle 6:30. E altro elemento da raccontare, che partiamo quasi tutte le giornate, poi potete trovare tutto sul sito che attraversamentimultipli.it, partiamo sempre con la luce del sole, quindi con orari anche un po' diversificati, più o meno verso le 6, a volte verso le 5 anche, e lavoriamo fino alla sera, quindi un po' partiamo col supporto della luce naturale, anche sul ragionamento di attenzione di impatto ambientale, quindi sempre un ragionamento di eco-innovazione che stiamo cercando di fare anche col festival, con gli artisti che lo attraversano, e attraversiamo il crepuscolo e arriviamo alla notte. Quest'anno sono 25 le compagnie presenti al festival, nazionali e internazionali. Gli internazionali abbiamo di nuovo un artista coreografo spagnolo, un giovane autore spagnolo che è Arnau Pérez, che presenta in prima nazionale Vibra il 20 settembre. E queste 25 compagnie in tutto presentiamo all'interno del festival, carrellate di 38 spettacoli. Le ultime due giornate chiudiamo a Toffi, anche quest'anno ospitati a questo borgo in provincia di Rieti, dove presentiamo due giornate guardando proprio al futuro dedicate ai giovanissimi. Di nuovo rilanciamo il biglietto giornaliero per le giornate a Roma, quindi con il fatto che ogni giornata è abbastanza densa, sono più o meno 6-7 performance al giorno, e c'è questo biglietto che abbiamo continuato a voler mantenere con accessibilità, sono 12 euro per tutta la giornata, per tutte le performance, e su questo secondo me era molto importante anche dal punto di vista, in questo momento di difficoltà anche economica, avere un'accessibilità alla cultura ci sembra un elemento importante su cui continuare a proporre, con delle riduzioni, abbiamo delle convenzioni, quindi quanto ci abbiamo pure ridotto per Under 26, una convenzione con l'ARCI, si può comprare il biglietto anche direttamente al parco, il Parco di Tor Fiscale si trova, è facilmente raggiungibile con la metropolitana, si trova all'inizio della Tuscolana, quartiere Quadraro / Appio Claudio. 25esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli, Coexistence, il titolo di quest'anno, a Roma dal 18 al 28 settembre, a Toffia il 4 e 5 ottobre 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. Alla prossima! Grazie a voi, vi aspettiamo al festival, ciao! Con Laura Nardi di Teatro Causa, direttrice artistica del progetto Interamundi, a Roma, Municipio IV, dal 15 settembre al 30 novembre 2025. Ben trovata. Grazie, grazie Federico. Buongiorno a tutti e tutti. Ce lo presenti? Interamundi è un progetto che ha vinto l'avviso pubblico di Roma Capitale Artes e Jubileum. E che cos'è? Diciamo che noi in vari luoghi del quarto municipio realizzeremo una serie di attività tra arte, memoria e relazioni sociali. La prima attività di cui parlo, per entrare un po' nel merito, è Pedala Radio. Che cos'è Pedala Radio? È una radio che si muove in bicicletta per raccogliere le memorie dei quartieri, intervistando proprio gli abitanti del territorio a partire dai mercati rionali e dai parchi, e poi tutte queste memorie orali che raccoglieremo confluiranno in una serie di podcast per ricostruire la memoria del quarto municipio. Poi proseguiamo con un'attività che abbiamo già realizzato anche altre volte, che si chiama One to One Performance, che è un'esperienza molto intima, molto personale, in cui il singolo partecipante entra proprio in contatto ravvicinato con l'interprete, è un rapporto uno a uno. Attraverso un gioco di cartomanzia vengono proposte una serie di letture su due temi importanti della nostra contemporaneità, che sono la guerra e la pace. I libri sono in qualche modo la memoria, e i libri sono il massimo archivio dei pensieri e dei documenti della nostra storia, per cui noi realizzeremo nei Bibliopoint questa attività proprio nelle librerie, nei Bibliopoint e nella Casa del Parco. Poi faremo una serie di passeggiate storiche, letterarie e paesaggistiche per scoprire il territorio del quarto municipio, e alla fine arriviamo all'attività che a me perlomeno personalmente coinvolge in modo particolare, che è la Human Libraries. All'interno delle biblioteche Vaccheria Nardi e Giovenale noi creeremo queste biblioteche viventi. Invece di andare a prendere in prestito un libro in biblioteca, noi andiamo a prendere in prestito una persona reale che, ovviamente in un ambiente inclusivo e sicuro, condivide con il lettore la propria esperienza personale. E queste Human Libraries, tra l'altro è un format che è stato ideato da Danimarca nel 2000, ma ormai è diffuso a livello globale. Noi abbiamo quattro tipologie di appuntamenti. Abbiamo una prima Human Library che è dedicata alla casa, perché in collaborazione con la cooperativa Il Cigno noi diamo voce a tutti gli ospiti del centro di accoglienza Maria Teresa di Calcutta, quindi ex senza fissa dimora. Poi abbiamo un'altra Human Library che è il conflitto, per cui diamo voce per esempio a molte donne anche afghane. Stiamo ancora costruendo questa Human Library sul conflitto, per cui stiamo cercando anche di dare voce ai palestinesi, ma siamo ancora in fieri, stiamo ancora cercando di trovare persone, perché qualcuno si vuole candidare basta scrivere a teatrocausa@gmail.com. E poi abbiamo una Human Library sui diritti delle donne, che organizziamo con avvocate, psicologhe e con il centro antiviolenza B3, e in più un'ultima Human Library che si chiama Storie Libere ed è aperta a tutte e tutti quelli che hanno desiderio di raccontare una storia, una parte della loro vita che possa essere in qualche modo importante condividere con la comunità. I riferimenti internet per il programma? Tutto su teatrocausa.org e sui nostri canali social, sia Facebook, su Instagram, che è sempre come riferimento Teatro Causa. Per entrare in contatto con noi, teatrocausa@gmail.com. Il progetto Interamundi a Roma, al Municipio Quarto, dal 15 settembre al 30 novembre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Laura Nardi di Teatro Causa, che è direttrice artistica. Alla prossima! Grazie. Con Alessandra Lanciotti, direttrice artistica del Festival Diffuso di Circo Teatro, un'altra storia. A Roma dal 12 settembre al 12 ottobre 2025. Ben trovata. Grazie, ben trovato. Ci presenti questa iniziativa? L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale L'Archimandrita, che di solito a casa all'interno del Teatro Furio Camillo. In questo caso andiamo in gita, andiamo fuori porta. Le attività saranno fatte in modo diffuso nelle piazze e nei parchi del quartiere Laurentino e una piccola parte anche all'interno del Teatro Furio Camillo. Iniziamo e chiudiamo il Furio Camillo, quindi il 12 settembre inaugureremo una mostra qui a teatro e il 11 e 12 ottobre chiuderemo con uno spettacolo a teatro. Tutta la manifestazione è incentrata sull'idea che il viaggio, le migrazioni, gli spostamenti fanno parte di quella che è la nostra vita fisiologica di esseri umani, e quindi vogliamo presentare l'idea del viaggio e delle migrazioni come un qualcosa che sia fisiologico per tutti quanti, quindi con spettacoli, con mostre, proiezioni e tantissime iniziative. Com'è nato tutto? perché siamo stanchi e stanche di sentire che le persone percepiscano, le persone che vengono da fuori, migranti o chiunque si affacci sulle nostre coste o nelle nostre città, come nemico. E pensiamo noi del Furio Camillo, tutte e tutti, che sia in realtà un arricchimento, è un valore aggiunto e non un problema. Quanti sono gli appuntamenti? Sono tantissimi, perché praticamente tutti i giorni, quindi sono più o meno 25 appuntamenti, perché il fine settimana ci sono gli spettacoli, il sabato e la domenica, durante la settimana ci sono delle letture animate per i bambini presso la Biblioteca Laurentina, e in più appunto ci sono proiezioni, tavoli di lavoro, mostre fotografiche, eccetera. Si trova tutto quanto sul sito del Teatro Furio Camillo, sia sul sito che sui social del Teatro Furio Camillo. Per quanto riguarda i momenti di spettacolo, com'è stata la scelta artistica? È stata sempre legata all'idea che gli spettacoli in qualche modo raccontino l'incontro con l'altro. Anche negli spettacoli più piccolini, anche negli spettacoli quelli proprio di teatro di strada, abbiamo avuto un'attenzione al fatto che tutti gli artisti che partecipano siano sensibili al tema e in qualche modo all'interno dello spettacolo raccontino questo. L'accoglienza e la condivisione. La scelta di questo titolo? Perché vogliamo raccontare un'altra storia rispetto a quella che ci viene narrata tutti i giorni dalle televisioni, dai social, dai media. Una narrazione che secondo noi è tossica e non aiuta nessuno. Quindi questa è un'altra storia, quella che noi vogliamo raccontare, o quantomeno ci proviamo. Il Festival Diffuso di Circo Teatro, un'altra storia, a Roma dal 12 settembre al 12 ottobre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Lanciotti. Alla prossima! Grazie a voi, alla prossima, buona giornata. Con Sandra Gasbarri dell'Arci AUCS per presentare il Selvatico Fest, praticare i paesaggi delle aree interne, a Farnese dal 19 al 21 settembre 2025, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Ce ne parli? Si terrà nel comune di Farnese, nella provincia di Viterbo, un comune dell'Alta Tuscia. È un festival che ha l'obiettivo di discutere e anche analizzare le pratiche relative all'abitare le aree interne. Non solo all'abitare, ma in particolare nel nostro caso ci sarà proprio festival un focus specifico sul paesaggio, in particolare rispetto al ruolo della pastorizia nel mantenimento del paesaggio, al tema del turismo lento e dei cammini, quindi il ruolo che può avere il turismo nel sostegno delle economie delle aree interne in un'ottica anche di turismo lento, e infine proprio analizzare un tema molto importante, che è quello di come in questo momento storico viene utilizzato il paesaggio delle aree rurali. Quindi faremo un'analisi di tutti quelli che sono i progetti anche speculativi che vengono calati dall'alto nelle aree rurali. Con questo proprio parleremo appunto dei grandi progetti energetici, quindi l'installazione di grandi aree di pannelli solari o paleoliche, ma anche di progetti relativi proprio all'utilizzo estrattivo dei paesaggi delle aree interne. Quindi ci saranno talk rispetto a queste tematiche, ma anche escursioni, laboratori e film, quindi tutte le sere a partire dalle 21 ci saranno le proiezioni di film legate alle tematiche del festival. Come saranno articolate queste tre giornate? Inizieremo all'apertura il 19 di settembre alle ore 17 con il primo talk. Abbiamo allestito una piazza proprio all'interno di Farnese, Piazza della Rocca. Alle 17 ci sarà il primo talk, dopodiché inizieremo alle 21 con la proiezione del primo film. Poi si passerà direttamente al 20, dove la mattina inizieremo alle 7.30 con un'escursione alla Selva del Lamone, un'escursione mattutina. E alle 11 un altro talk sulla pastorizia alla Riserva Naturale Selva del Lamone. E di nuovo alle 17 un talk a Piazza della Rocca sull'utilizzo estrattivo del paesaggio nelle aree interne. E poi alle 21 di nuovo un film. L'ultimo giorno invece sarà dedicato a passeggiate in laboratori all'interno della riserva naturale Selva del Lamone e alle 21 proietteremo il film No Other Land, proprio per parlare anche della questione palestinese. Quindi saranno 3 giorni in cui ci saranno attività per tutto il giorno. Come nasce questo progetto? Il progetto nasce grazie a innanzitutto una storica collaborazione che noi abbiamo con il Comune di Farnese come associazione Circolo Arci e con la Riserva Naturale del Lamone. In particolare in questo caso abbiamo vinto un bando di Action Aid dedicato alle aree interne. Abbiamo portato avanti per un anno intero un progetto che ha prima di tutto coinvolto la comunità in una attività di tavoli di coprogettazione sullo sviluppo locale, formazione sulle tematiche della pastorizia, la selvicoltura e il turismo lento, e questo evento vuole rappresentare anche un momento di restituzione per la comunità del lavoro fatto. Inoltre, durante il festival accoglieremo giovani e attivisti dell'ARCI da tutte le aree interne d'Italia, quindi sarà anche uno spazio di formazione e di confronto con altri circoli che lavorano all'interno dei circoli ARCI collocati appunto nelle aree più rurali e interne. I riferimenti internet per il programma? Sul sito dell'AUCS, aucs.it, Festival Selvatico, oppure sulla pagina social Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo. Selvatico Fest, praticare i paesaggi delle aree interne a Farnese dal 19 al 21 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Sandra Gasbarri dell'ARCI AUCS. Alla prossima! Alla prossima, grazie mille! L'agenda della settimana teatrale romana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. E buon pomeriggio a tutte e tutti all'ascolto di Radio Onda Rossa per andare a vedere un po' quello che ci offre la settimana teatrale. E allora, io direi di cominciare da qualcosa che è già cominciato in realtà e si tratta del monolocale Carini, ossia questa manifestazione che andrà avanti fino al 21 di settembre al Teatro Vascello, che è un'idea di Daniele Coscarella e Dario Tacconelli per il terzo anno consecutivo. Si tratta di una manifestazione di monologhi, stand-up, canzoni, improvvisazioni, frammenti poetici, insomma una sorta di jam session teatrale casalinga che va avanti all'interno dello spazio bar del Coffee Plant del Teatro Vascello fino al 21, insieme a loro anche Emanuela Panatta, divano al centro della scena, e poi insomma quello che accade dopo è tutto un po' da vedere, e ogni sera è sicuramente molto molto diverso. Quindi Teatro Vascello per questo inizio di stagione, anzi di prestagione, monolocale Carini fino al 21 di settembre, tutte le sere alle ore 21. Poi è finito Short Theater alla Pelanda e Palazzo dei Congressi, ma insomma continua il teatro a Roma. Andiamo a vedere un po' che cosa ci offre ulteriormente. Mercoledì 17 alle ore 12 viene presentata il progetto I Volti dell'Arte Performativa, che poi di cui parleremo poi più avanti, dedicato dalla Capriola Braxa Teatro con Emilio Genazzini, che ne cura la direzione artistica, a performance, incontri, e andremo in questo caso ad intervenire, verrà ad intervenire Eugenio Barba e Giulia Varley dell'Orient Theatret, che daranno vita insomma alla presentazione di questo progetto, che dal 21 ottobre poi al 22 dicembre, abbiamo modo di parlarne, sarà in vari spazi. Poi ancora andrei a parlare di Animalia al bar del teatro India dal 18 al 21 settembre, essere umani, essere animali, spettacoli, visite guidate, laboratori, yoga, tutto ad ingresso libero. È una rassegna, cioè bisogno di prenotazione obbligatoria, ma fabbricaassociazione.it per quanto riguarda le informazioni migliori. Il cuore del progetto, la performance di teatro e musica di nome proprio Animalia, questo racconto poetico ed ecologico sui testi di Francesca Caprioli, che 18 e 19 settembre sarà in questi spazi del bar del Teatro India, e poi insomma tutto il resto direi di andarlo a vedere sul sito, appunto, fabbricaassociazione in realtà su una sola .it per il programma completo della settimana 18-21 settembre per Animalia. Poi al Parco delle Valli continua il Circo Park, sempre all'ingresso libero a via Concadoro, insomma, al Parco delle Valli, a cura della Scuola Romana di Circo. Ci sono vari spettacoli questa settimana, andremo a vedere un doppio lavoro il 20 settembre alle ore 11 del mattino, il giocoliere Jacopo Candeloro, con la tecnica, ritmo, gag, insomma, che rendono uno show unico e originale, mentre poi la sera del 20 settembre alle ore 18 andremo a vedere il Blitz Musicali dell'Orchestra degli Ostinati, dei concerti veri e propri, e insomma che però hanno a che vedere con il circo. Quindi Circo Park fino al 28 settembre al Parco delle Valli. Procediamo, andiamo a vedere il continuo questa settimana di Roma Borgata Festival dal 17 al 21 di settembre. Andiamo chiaramente sul sito romaborgatafestival.it, perché gli appuntamenti sono un bel po' e tutti i giorni. Il quartiere in questo caso è Tormarancia, dopo insomma vari spostamenti in vari altri quartieri. Roma Borgata Festival propone questa settimana il Bar Campioni di Emiliano Morana, andremo a vedere insomma un po' di vari appuntamenti, anche domenica 21 settembre questo appuntamento mattiniero con le Street Stories Tormarancia di Giulia Anania e Tiziano Panici, e il pomeriggio il Mamma Roma, tragedia popolare in 5 atti di Fabio Morgan, che abbiamo già visto e sarà all'interno delle case Ater della zona, noi lo abbiamo visto nelle case Ater di Torrevecchia, ma insomma è un progetto di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana. Poi a Roma ritorna il primo festival di videodanza dal 17 al 24 settembre, la direzione artistica è quella di Roberta Nicolai, è la terza edizione negli spazi di Villa Lais della Biblioteca della Pace, la libreria Blue Room, è un progetto appunto curato da Roberta Nicolai, vedrà insomma vari appuntamenti dedicati alla videodanza, quindi per un programma un pochino più completo direi di andare a vedere sul sito triangoloscalenoteatro.it, dove appunto potremo trovare le informazioni, tutte le informazioni. Quindi 17-24 settembre a Roma, Villa Lais, questo punto MOV che è il primo festival di videodanza a Roma. Continua fino al 12 ottobre al quartiere Laurentino, al Teatro Furio Camillo, questo Un'altra Storia, il festival diffuso di circo teatro sul tema delle migrazioni. Anche qui tutti gli eventi sono gratuiti, e per quanto riguarda questa settimana, il 19 settembre andremo a vedere una conferenza dedicata agli addetti ai lavori, ma poi a seguire il film Juventa con la regia di Michele Cinque. Sabato 20 invece lo spettacolo della compagnia Circo Svago, che si chiama Ciclo Stile, spettacolo itinerante in cui artisti in bicicletta e musicisti attraversano lo spazio urbano creando momenti di interazione con il pubblico di tutte le età. Seguirà alle 17 Mago o non Mago di Filippo Porcari in arte Phil, ancora qui giocoleria, magia contemporanea. Domenica 21 Miss Tip della compagnia Endaxi, storie di viaggio della compagnia Materia Viva, e questo insomma per quanto riguarda questa settimana, ma poi il festival andrà ancora avanti, ne parleremo ancora ulteriormente. E poi veniamo agli ultimi appuntamenti di cui parlare. Il primo di cui parlerei è appunto Attraversamenti Multipli, che dal 18 fino al 28 settembre, nella natura urbana del Parco di Torre del Fiscale, propone un programma multiforme di performance, spettacoli site specific, formati performativi in dialogo con il paesaggio naturale e archeologico, quindi come tutti gli anni, attraverso eventi multipli, curato da Margine Operativo, sarà a Roma, appunto al Parco di Torre del Fiscale, fino al 28 settembre, ma poi 4 e 5 ottobre a Toffia, provincia di Rieti, ne parleremo poi ancora. Si tratta del 25esimo anno, il programma è anche qui piuttosto diffuso e complesso, e l'invito appunto ad andare a vedere il sito Art in Connessione e Quarta Parete Roma per andare a vedere poi il programma completo, ma insomma anche direttamente attraversamenti multipli, e il programma sarà facile da rintracciare. Questo sicuramente è un festival che andremo a seguire, così come continuiamo a seguire il Roma Europa Festival con i due appuntamenti della settimana. Il primo, dedicato al teatro, alla musica, riguarda il Racconto Novecento, quello di Alessandro Baricco, che infatti sarà in scena con Stefano Bollani e con Enrico Rava, il 16 settembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica. Chiaramente Novecento, il testo teatrale scritto dallo stesso Baricco, e per questa versione appunto denominata Il Duello, probabilmente appunto avrà a che vedere con la musica, perché di duello all'interno del racconto ci ricordiamo proprio quello fra Novecento, il pianista sull'oceano, e Jelly Roll Morton, appunto capitato sull'oceano, sul Virginian, proprio in quella occasione. Da quella sfida appunto prende vita la nuova sfida, il nuovo duello fra Stefano Bollani ed Enrico Rava, e questo appunto il 16 settembre al Auditorium Parco della Musica per Roma Europa Festival. Ma il 17 andremo a vedere You Theater con Sword of Wisdom, danza e musica in prima nazionale sempre all'Auditorium Parco della Musica. You Theater è una compagnia taiwanese energica, poetica, sospesa nella potenza delle percussioni, si unisce alla danza, alle arti marziali, ispirandosi ai versi buddhisti che raccontano il cammino del guerriero illuminato verso la realizzazione. La compagnia, fondata nel 1988, influenzata dalla prospettiva e dai metodi di formazione di Jerzy Grotowski, è diventata oggi una delle compagnie più eccellenti, si può dire una compagnia che è una compagnia eccellente del panorama orientale, ma mondiale direi, internazionale. Quindi all'Auditorium Parco della Musica, ripeto, You Theater con Sword of Wisdom, 17 settembre. E con questo abbiamo concluso e diamo appuntamento a teatro con tutte e tutti. Ciao! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.